Sound check, il suono della musica di Gigi Telesforo. Andiamo avanti con la musica qui al Soundcheck di Radio 24. Buonasera a tutti voi da Giorgio Telesforo. Buonasera a Riccardo Bomarzi, buonasera, in postazione. Buonasera. Buonasera Riccardo, buonasera Francesco Tromba. Ciao a tutti. Allora, intanto noi ci stiamo riorganizzando il calendario con tutti gli ospiti e i musicisti che verranno a trovarci. Devo dire la verità, abbiamo preso qualche settimana di pausa perché lo studio è impegnato su alcune produzioni e quindi mettere insieme la musica dal vivo per il soundcheck e il resto diventava un po' complicato, soprattutto per il nostro super Riccardo Bomarzi che vive da queste parti e io ogni tanto sono costretto a aprire la porta dello studio, a buttargli dei ciotoloni di riso soffiato e di carne in scatola, così come si fa con i Doberman. Esatto. No? Vabbè, grazie Riccardo per il lavoro che stai facendo, però insomma ci stiamo riorganizzando, quindi prestissimo torneremo anche a proporre i live qui dal Groovemaster Studio. Sì, bisogna far respirare un po' anche gli strumenti. È vero, facciamo beh, non respirano perché non li suonano i musicisti del soundcheck, ma li suonano gli altri, quindi qua stiamo lavorando perché abbiamo varie cose in cantiere. Oggi la puntata l'abbiamo organizzata con un concept ben preciso, mio caro Francesco, ovvero Madre Africa. Assolutamente Madre Africa. Madre Africa, Madre Africa, perché è da lì che veniamo. E noi che facciamo musica, i musicisti contemporanei, tutti coloro che vivono ritmicamente la musica, provengono da quella terra meravigliosa. Beh, infinita, infinita. Sì, i ritmi più interessanti, quelli più ancestrali, alla fine è anche uno dei continenti più antichi che esistono. Beh, ma da lì nasce, sì, tutto, tutte le derivazioni e le declinazioni ritmiche che hanno portato poi al jazz, alla pulsazione dello swing, al reggae, al suono tipico dei ritmi in do stress, tres dos, quindi il segreto della clave, tutto viene da Madre Africa. L'origine di tutto è l'Africa. È l'origine, e quindi sì, oggi ci concentriamo su quel tipo di suono con produzioni recenti, artisti di riferimento di questo momento, ma anche alcuni musicisti che americani della nuova generazione che ultimamente sentono il richiamo della foresta. Sì, perché comunque alla fine, anche se non ci sei mai stato in Africa, le tue origini, soprattutto dal punto di vista del suono, del sound, ci sono sempre. Allora, vogliamo iniziare proprio con qualcosa che ci porta subito in quel meraviglioso continente da un punto di vista ritmico e anche dal tipo di suono, perché naturalmente il continente è vasto, nelle varie regioni, nelle varie nazioni, nei vari paesi, nelle varie città esistono strumenti diversi, culture diverse, quindi molte spezie. Assolutamente, pieno, ecco, di spezie. Pieno di spezie, così come sarà piena di spezie la nostra puntata dedicata a Madre Africa. E lui è, e questa è una super band, Afriquoi. Sì, gli amici si chiedono: ma da dove arrivano questi ragazzi? Da quale diavolo di città africana arrivano? No, questi arrivano da Londra. Sì, sono di base a Londra. Di base a Londra, Afriquoi con Kudashi, ovvero Kudashi Matimba, al soundcheck di Radio 24, da il via a questa puntata che ha come suono proprio Madre Africa. Sì, è il disco di Afriquoi, si intitola Colabba, da cui è stato estratto appunto questo brano che abbiamo ascoltato. Il disco è molto interessante perché, oltre appunto alle sonorità tipiche, diciamo, ancestrali africane, viene mischiata anche tutta l'esperienza londinese che hanno avuto questi ragazzi, questi musicisti. Quindi c'è anche un settore, diciamo, più dance, dedicato alla dancehall, ma anche appunto pieno di synth e di elettronica. elettronica, quindi diciamo una sorta di futurismo africano. Anche da noi si stanno sviluppando band miste, cioè con ragazzi che arrivano dall'Africa, che naturalmente coinvolgono ritmicamente anche musicisti italiani. Per esempio, una delle espressioni massime nel nostro paese, che mette insieme vari linguaggi e varie culture musicali, è l'orchestra di Piazza Vittorio. Beh sì, perché comunque poi i membri cambiano abbastanza spesso, quindi comunque ogni nuovo membro porta la sua esperienza sia dal punto di vista musicale sia dal punto di vista umano. Ritmicamente Madre Africa è formidabile, esistono non so quante centinaia di dialetti e per ogni dialetto esiste un ritmo. Ecco, sì, quindi un'infinità. Un archivio infinito. Sì, perché la musica, il ritmo è come la matematica, è infinita. Sì, sì, si possono utilizzare combinazioni infinite. Diverse. Kologbo, ho detto bene, no? Sì, Kologbo, lui è uno storico chitarrista della band di Fela Kuti. Eccolo qui, Africa is the future. Soundcheck. Il suono della musica. Madre Africa, protagonista del soundcheck di oggi qui su Radio 24. Questa è un'altra protagonista recente, Jam Rosie con Breaking Cycles, il titolo dell'album recentissimo. Il brano era Farafina. E tanto a me l'album è piaciuto molto, Francesco, perché ci sono tutte le sfumature di Madre Africa nella mentalità contemporanea. Sì, rispetto all'album precedente lei recupera, diciamo, quelle che sono le sue radici africane, perché lei è nata in Camerun, però è europea, nel senso che ormai è residente da tanti anni a Rotterdam, quindi è olandese di adozione. E lei, il suo suono è stato descritto più come future afro soul, nel senso che nei lavori precedenti era molto più presente la componente soul, quindi diciamo si rifaceva, infatti ascoltandola sembrava di essere appunto una cantante R&B. Afroamericana R&B, sì, assolutamente. Sì. Invece in quest'ultimo lavoro, come dicevamo, recupera le sonorità che vengono dal Camerun e dall'Africa in generale. E infatti è molto interessante che molti artisti della nuova generazione stanno recuperando le loro origini, quindi roots and spices, abbiamo detto, le radici e le spezie di Madre Africa, ed è una cosa che fanno naturalmente da sempre anche Orlando Julius, in questa occasione con Heliocentrix. Sì, gli Heliocentrix tra l'altro sono un gruppo parte meraviglioso e versatile, nel senso che hanno fatto tantissimi progetti negli ultimi anni, quindi variano e spaziano dal jazz alla world music, anche in alcuni casi alla musica classica dal vivo, nel senso che comunque recuperano anche l'esperienza della musica classica. Sono loro residenti a Londra, sono comunque anche musicisti, però africani. Ecco, da questa pubblicazione la cosa che mi ha colpito di più, che pur vivendo a Londra da musicisti contemporanei non hanno utilizzato in maniera eccessiva la tecnologia. Infatti il suono del disco è sporco. Sì, questa è una cosa che si sta anche recuperando, nel senso che anche Sudan Archives, ad esempio, che è questa violinista, cantante afroamericana, ha recuperato quelle che sono appunto, ha fatto tutta una ricerca anche antropologica nel suono della musica africana del Sudan, del Sud Sudan anche, per cui anche dal punto di vista della produzione ci sono dei suoni che sono molto sporchi, quasi diciamo come se fossero dei field recording. Sì, è bello perché viene fuori l'afrore della musica, come diciamo noi. Allora, Orlando Julius with the Heliocentrix, il brano si intitola Asen. Soundcheck. Il suono della musica. Di DJ Telesco. Sampa the Great, Protect Your Queen, proteggi la tua regina, il sound africano di Sampa the Great al soundcheck di Radio 24 in questa puntata dedicata a Madre Africa da un punto di vista sonoro, ma potremmo anche trattare vari argomenti che riguardano questo infinito continente che noi naturalmente da programma di musica però oggi analizziamo da un punto di vista sonoro e ritmico. L'artista che abbiamo ascoltato si chiama Sampa Tempo, in realtà il suo nome d'arte però è Sampa The Great. Lei è residente a Sydney in Australia e si descrive principalmente come una poetessa e poi come una cantante e una songwriter. Dicevamo che molti artisti contemporanei stanno recuperando le loro origini, le origini della loro famiglia, no? Perché sì, sono tutti nati in Inghilterra, negli Stati Uniti, ma sentono sempre il desiderio di tornare in Africa per andare a scoprire proprio da dove provengono le loro famiglie, o se non vanno in Africa musicalmente comunque ci si avvicinano molto. Beh, il richiamo è sempre forte, poi quando arrivi in Africa in realtà diciamo ci sono due partiti, nel senso che ci sono quelli che una volta arrivati in Africa ovviamente le difficoltà sono infinite, nel senso che per arrivare da un punto A a un punto B magari sono 300 chilometri e ci metti 3 giorni. È vero. Quindi ad alcuni ovviamente questa cosa, magari chi è nato, cresciuto nella società occidentale, la vede come una cosa da odiare, invece altri si innamorano completamente perché comunque è un continente meraviglioso. Tu mi hai detto, a te non piace l'idea del mal d'Africa, però moltissimi dopo un viaggio, un'esperienza di questo tipo, sentono il richiamo, ovvero torniamo in Africa prima possibile perché ci si lascia un pezzo di cuore. Sì, non mi piace diciamo proprio il termine mal d'Africa, nel senso che mi evoca, non so, dei sentimenti forse non corretti, però ecco, perché era un termine, leggo qui, che anche in epoca fascista, no, l'espressione era usata con una connotazione completamente diversa, in riferimento allo sforzo umano ed economico dell'espansione coloniale italiana in Africa. Infatti quello mi ricorda, perché avendo studiato storia, diciamo, quello è il problema. Allora, parlando degli artisti contemporanei, ce n'è stato uno diversi anni fa quando realizzò un album capolavoro di riferimento per il contemporary R&B intitolato Voodoo, che ha dedicato una composizione a Madre Africa. E infatti come l'ha intitolata? Africa. Eccolo qui, D'Angelo con Africa. Chiude, naturalmente alla batteria lo sai che c'è Questlove, naturalmente Pino Palladino al basso e tutti gli altri. Vi lasciamo con Africa per D'Angelo, ci risentiamo subito dopo l'informazione di Radio 24. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. Seconda parte del soundcheck di oggi qui su Radio 24 con Gegè Telesforo, Riccardo Bomarzi e Francesco Tromba, e ci stiamo divertendo un sacco ad ascoltare pubblicazioni recenti che ripropongono il sound di Madre Africa. Sì, pubblicazioni recenti perché ultimamente insomma l'afrobeat sta andando molto forte. Ho notato che ci sono anche dei club dove la musica di riferimento è proprio l'afrobeat contemporaneo, ovvero le origini di Madre Africa con tutte le sfumature e tutte le spezie ritmiche e percussive integrate poi con la tecnologia e l'utilizzo di campionatori digitale e via dicendo. Insomma, ci sono artisti della nuova generazione che hanno sposato questo tipo di cultura, ma poi ci sono musicisti che sentono il richiamo della foresta, ovvero musicisti che si dedicano ad altri generi musicali, che però a un certo punto sentono il bisogno di dedicare il loro tributo alle loro origini, o altri artisti che sentono solo un richiamo da un punto di vista musicale. E fra questi, per esempio, vorrei ricordare il nostro bravissimo chitarrista italiano residente a Londra, Antonio Forcione, che probabilmente nel DNA qualcosa di africano ce l'ha pure lui. Beh sì, probabilmente sì, poi ha anche conosciuto questi musicisti di cui ci parlava a Londra, musicisti che hanno origini africane, e quando ti imbatti appunto nelle sonorità africane scopri una galassia vera e propria, e quindi di stimoli musicali ne hai parecchi, ne hai tantissimi, ti appassioni sempre di più e alla fine vengono fuori tantissimi dischi. È vero, e Antonio Forcione è stato nostro ospite alcune settimane fa partecipando al soundcheck presentando una pubblicazione in compagnia della bravissima Sarah Jane Morris. Che momento! Sì, bellissimo, emozionantissimo. E proprio in quell'occasione Antonio ci raccontò che aveva da poco pubblicato un album intitolato Sketches of Africa, appunti di viaggio in qualche modo per un artista italiano molto legato alla world music. Io ho seguito i suoi concerti e seguo la sua carriera e fa sempre cose fantastiche. Intanto sulla chitarra è un virtuoso vero e proprio. Beh sì, un fenomeno istintivo assoluto da un punto di vista ritmico, e ogni suo progetto ha una connotazione sonora molto ben definita. E poi parlandoci mi è sembrato appunto un grandissimo curioso sicuramente di musica provenienti dal mondo anche di musica etnica. Ci ha raccontato appunto di aver fatto diversi viaggi sia in Africa che a Cuba, e ha trovato anche ovviamente delle connessioni che ci sono tra la musica europea, africana e cubana. Allora io direi di ascoltare, per presentarvi questo Sketches of Africa per Antonio Forcione, proprio il brano che apre la pubblicazione. Brano bellissimo, si intitola Madiba's Jive, naturalmente dedicato a Nelson Mandela. E qui è un quartetto semplicissimo: Adriano Adewale alle percussioni, Jenny Adejayan al violoncello, Nathan Thompson alla kalimba e Antonio Forcione con le sue chitarre a 6 e 12 corde. In quattro sentite che meraviglia riescono a creare questi formidabili musicisti. Soundcheck di Gege Telesforo. E questo è un progetto che si è costituito nella bellissima Chicago, The Windy City, con protagonisti musicisti africani e non solo, ma tutti appassionati del continente africano che oggi stiamo celebrando musicalmente qui al Soundcheck di Radio 24. Progetto che si chiama Chicago Afrobeat Project, con la partecipazione di Tony Allen. Sì, in realtà credo che siano quasi tutti più o meno studenti, cioè comunque abbastanza giovani, afroamericani, ma non solo, ci sono anche tanti bianchi in questa band. Nel corso degli anni hanno fatto diversi progetti discografici, in alcuni precedenti c'erano anche delle guest artist che avevano lavorato anche con No Name, che abbiamo già ascoltato qui al Soundcheck. In altri casi ci sono dei guest che vengono dall'Africa, comunque musicisti africani affermati anche, diciamo, meno noti. In questo caso si tratta di Tony Allen, che è appunto un batterista meraviglioso, che ha fatto parte anche del gruppo di Fela Kuti, che ha collaborato anche con tantissimi musicisti europei. E forse Tony Allen è anche una delle persone più difficili da intervistare, nel senso non è uno di molte parole. È vero, comunque se sei un batterista e un percussionista, Madre Africa diventa il tuo pane quotidiano. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Che varietà di strumenti, che varietà di suoni e di ritmi da Madre Africa hanno praticamente generato tutto loro. E infatti, lo dicevamo, molti artisti contemporanei sentono il richiamo. E il richiamo lo ha sentito anche la regina del New Soul, Erykah Badu. Sì, ha fatto parte di questo progetto, di una super band, un super gruppo che ha prodotto questo disco, che si intitolava Rocket Juice and the Moon, della quale facevano parte anche Damon Albarn dei Blur e dei Gorillaz, Flea, il bassista dei Red Hot Chili Peppers, e c'era anche in questo caso Tony Allen. Io la cosa che noto è che quando si va a vedere i concerti di Afrobeat anche il divertimento è assicurato. Assolutamente, non si può stare seduti. Non si può stare fermi, e sicuramente non starete fermi ascoltando questo brano intitolato Manuela. E qui a un certo punto fa la sua apparizione Africa Beat, che partecipa anche a altri brani che troverete in questa pubblicazione di Rocket Juice and the Moon qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica, di Gege Telesforo. E anche questo è un progetto molto interessante, giovanissimi, anche loro arrivano da Londra. È certo che la cultura afrobeat a Londra sta andando forte, Francesco, eh? Beh, secondo me le band che vengono da Londra in questo momento sono tra le più interessanti dal punto di vista dell'esplorazione dei sound, anche del missaggio dei sound. E infatti, ma da sempre Londra rappresenta la tendenza, la nuova tendenza. Però negli ultimi anni appunto ci sono tantissimi giovani che fanno dei dischi di una qualità infinita. Ezra Collective, brano intitolato Juan Pablo, qui al Soundcheck di Radio 24, puntata dedicata alle nuove sonorità afrobeat. E mi sa che sono stati anche in concerto in Italia. Sì, sono venuti in Italia a Roma, al Roma Jazz Festival, all'Alcazar. Li ho ascoltati dal vivo, sono veramente fantastici, nel senso che io non riuscivo a capire, c'erano un po' di persone che stavano sedute, non so come riuscivano a farlo, perché veramente anche dal punto di vista ritmico sono molto... ti prendono subito. Allora, ascolterei un altro esempio, qui però insomma è qua, c'è da fare un discorso a parte. Qui stiamo parlando di un veterano del jazz, uno sperimentatore non solo di suoni ma anche proprio la mentalità che ha sempre avuto. Dr. Lonnie Smith è sempre stata all'avanguardia, è anche un personaggio fantastico, vestito forse più da Santone, uno sciamano, sì. O non si sa quale diavolo di divinità egiziana, eh? Sembra anche un baba indiano. È vero, anche un baba indiano. Fatto sta che ultimamente con un collettivo di giovani talenti del jazz americano ha realizzato un album intitolato Evolution, album secondo me spettacolare, se non fosse che poi ogni brano dura un'infinità. Beh, però è bello anche così, dai. Allora, questo brano l'ha intitolato Aphrodisia, giocando proprio sul doppio senso, quindi c'è il richiamo, come dire, sessuale di Madre Africa. Sì, anche ballando, ascoltando questa musica, viene sicuramente voglia, diciamo, pensieri un po' hot. Dr. Lonnie Smith al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. E qui il nostro Dario De Ida, pluridecorato bassista a livello internazionale, intitola My Favorite Strings la sua pubblicazione con questo brano di riferimento che è molto africano, una composizione in 5/4 in questa versione recente per Dario De Ida. Visto che abbiamo chiuso con Dario De Ida, che è uno dei bassisti più amati al mondo, amato anche da un signore chiamato Marcus Miller, che recentemente ha pubblicato un disco intitolato Aphrodisia, così come il brano di Dr. Lonnie Smith, direi che sia proprio il caso di chiudere con lui questa puntata dedicata all'afrobeat. Assolutamente, con uno dei bassisti, i due bassisti migliori del mondo. Francesco, Riccardo, mi sono molto divertito, musica formidabile come sempre al Soundcheck di Radio 24, continueremo la nostra esplorazione nel mondo africano e magari prossimamente torneremo ad ascoltare qualcosa. Beh, sicuramente, perché le produzioni fioccano. Il sound contemporaneo e naturalmente africano di Marcus Miller con High Life chiude il Soundcheck e ci risentiamo domani 19:15 sempre su questi schermi. A tutti voi una buona serata e buona musica da Giorgio Telesforo, Francesco Tromba e Riccardo Bomarzi.